Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di sicurezza in un modo del tutto speciale. Chiara Albicocco infatti ci porta dentro uno scenario futuristico, quasi da fantascienza. Ricordate Minority Report, il film con Tom Cruise in cui degli agenti di polizia bloccavano i crimini prima che venissero commessi? Beh, non siamo a questo, ma neanche troppo lontano. Ci spiega tutto Andrea Di Nicola, criminologo dell'Università di Trento e coordinatore del progetto di sicurezza urbana predittiva e-security. Sentiamo. Lo si sta facendo in poche esperienze a livello internazionale, la nostra è una di queste, e il tutto è partito negli Stati Uniti e in Inghilterra. Ci sono tre esperienze internazionali di polizia predittiva. L'idea è quella di poter a breve termine prevedere alcuni reati, non tutti, alcuni reati che si sviluppano in un contesto urbano. Sembra fantascienza, ma invece è scienza e ricerca, è scienza molto seria. Importante avere dei dati buoni, e queste esperienze all'estero sono partite da dati di polizia, quindi dati sulla criminalità localizzata nei luoghi di una città, per prevedere la concentrazione futura di criminalità. In pratica il passato ci insegna qualcosa sul futuro, no. E questa criminologia si chiama criminologia ambientale. Tra l'altro noi stiamo parlando di città come Memphis, Los Angeles, cioè città che hanno un tasso di criminalità anche abbastanza alto e un'estensione anche geografica grossa. Tornando in Italia, ecco, la sperimentazione si è avviata da qualche mese in una cittadina più piccola, a Trento, e quindi veniamo al vostro progetto, di cui lei è il coordinatore scientifico, si chiama e-security. Sì, lo stiamo facendo come università insieme alla Questura di Trento, insieme alla Fondazione Bruno Kessler e al Comune di Trento, quindi già vari attori istituzionali. L'idea è che non tanto che Trento sia la città più pericolosa d'Italia, perché oggettivamente perché non lo è. ma è un laboratorio, dove forse le istituzioni si possono incontrare e possono aiutare i ricercatori come noi ad avere quelle informazioni utili per prevedere la criminalità. Ma non solo, noi stiamo facendo questo, abbiamo già cominciato a farlo insieme a me e il vicequestore Scione e Cesare Furlanello dell'unità modelli predittivi della Fondazione Bruno Kessler. Abbiamo cercato di raccogliere tutte quelle informazioni che già esistono dalla Smart City Trento, dal comune e da tutti i gangli di questa città, che insieme alle informazioni di polizia, quindi dove avvengono i reati, ci possono dire sul qualcosa sul futuro della criminalità, del disordine, dell'insicurezza dei cittadini di questa città. Dunque, voi mettete insieme una serie di dati di polizia, ambientali, adesso magari ci facciamo raccontare nel dettaglio che tipo di dati sono, li mettete in un database, in un programma molto elaborato, e che calcola appunto le statistiche e restituisce, come dire, una sorta di mappa della città in cui c'è la diversa probabilità che si possa verificare un crimine, dal furto alla rapina, quello che è. Esatto, proviamo a immaginare una città che ci dà tutte le sue informazioni sulla vita delle persone, sul traffico, sull'illuminazione, sul meteo, su quante automobili ci sono nei parcheggi, su quante persone ci sono sui mezzi pubblici, di avere tutti i dati sociodemografici, noi diciamo georiferiti, cioè localizzati per piccoli quartieri, per piccole aree di questa città, la cartografia delle strade. Siccome la criminologia ci insegna che la criminalità si concentra nei luoghi e nel tempo all'interno di un tessuto urbano, tutte queste informazioni sono delle variabili, sono delle caratteristiche che ci possono aiutare a prevedere questa concentrazione. Insieme ai dati sul disordine sociale e fisico nella città di Trento, quindi con un protocollo di rilevazione, per fare degli esempi, l'accattonaggio, la prostituzione, i graffiti, l'inciviltà, che predicono anch'essi la criminalità e la concentrazione della criminalità, e insieme ai dati di polizia che ci arrivano dalla questura di Trento. Questo è il primo esperimento italiano di polizia predittiva, e tutti questi dati finiscono e vengono, diciamo, fusi in una grande, lo stiamo facendo, in una grande banca dati, e su questa banca dati girerà un protocollo prototipo, un software, un prototipo ICT, sarà un'interfaccia, ovviamente complesso perché dentro ci saranno delle regole, certo, degli algoritmi, adesso non voglio entrare nei dettagli, e l'output saranno informazioni per la questura, quindi per le forze di polizia, ma anche per le istituzioni locali, e questo è il motivo per cui c'è anche il Comune di Trento. E quindi questa è un po' un'esperienza continentale, un po' diversa dai progetti di cui parlavamo prima, che americani, sono tutti anglosassoni. Esatto. Di Nicola, una fetta importante del progetto prevede anche il coinvolgimento attivo della popolazione. Sì, condurremo con il Comune di Trento un'indagine sulla sicurezza oggettiva e soggettiva dei cittadini, sulla quindi percezione di sicurezza o di insicurezza per aree, sulla vittimizzazione, cioè se hanno mai subito un reato e magari non l'hanno denunciato. Questo permetterà di avere informazioni sempre localizzate sulla sicurezza soggettiva, sulla percezione e anche sui reati che non vengono detti, di cui la polizia non sa nulla. Questo verrà fatto per quattro volte ogni sei mesi su un campione della popolazione di 2000 persone e ci consentirà di avere nuove informazioni e dati che potranno essere utili e inseriti in questa banca dati che stiamo costruendo. Una volta elaborate le statistiche finali, cos'è il passo successivo? Cioè, quali sono gli interventi messi in atto dalla questura e probabilmente anche dall'amministrazione comunale? Beh, immaginatevi un'interfaccia amichevole, semplice, operativo, che dà informazioni su dove si concentrerà il disordine, la criminalità, l'insicurezza e dà e di alcune informazioni. Il questore potrà allocare in modo più efficiente le sue risorse e potrà anche monitorare gli andamenti della criminalità dopo l'intervento. E il sindaco, quindi un funzionario del comune, potrà valutare dove e perché i propri cittadini hanno paura e se magari hanno paura in luoghi dove non c'è criminalità, perché può avvenire, il perché, potrà misurare l'insicurezza, potrà intervenire su alcune variabili chiave che la determinano e valutare l'efficacia degli interventi che mette in atto. Perché ad esempio un'area della città può essere percepita come insicura semplicemente perché ad esempio ha una scarsa illuminazione, non perché ci sia in realtà un vero disagio, potrebbe capita essere. Capita molto spesso, anzi noi da criminologi sappiamo che la sicurezza percepita non viaggia parallela alla sicurezza oggettiva. Torniamo in studio solo per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.